Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Si è accesa la luce rossa anche oggi, microfono acceso. Buongiorno da Irene Zerbini. C'è tutto nello sguardo degli altri. L'incontro che faremo tra poco lo confermerà. Che sagacia, che abilità nel cogliere i dettagli che raccontano un paese, e spesso queste caratteristiche le hanno più gli stranieri che noi stessi. Ora io sto parlando del corrispondente che andremo a conoscere tra pochissimo. Mi ha colpito molto un articolo recente trovato proprio sull'Irish Times, che da solo è uno spaccato dell'Italia. E poi che faremo in questa mattinata? Staremo insieme fino alle 10 e oggi alle 9 parleremo ancora di fisco in Spunti di Vista, perché partiremo da un approfondimento sulla lotta al sommerso del Sole 24 Ore di ieri, cioè come il contribuente può fornire all'Agenzia delle Entrate delle prove adeguate in caso di controlli, a patto di essere davvero in regola. Dunque si entra nel vivo di questo nuovo strumento dell'amministrazione finanziaria, e sul Sole ieri si prendevano in esame 10 tipologie che ti possono far inciampare in controlli nonostante tu abbia tenuto comportamenti completamente legali e le tasse proprio non avevi alcuna intenzione di evaderle, perché come si diceva poco fa a conclusione del GR siamo tutti Robespierre, ghigliottinari, ma c'è anche gente in buona fede, siamo persone che col fisco vogliono essere in regola, ce ne sono tantissime, e a volte si inciampa nell'errore. Questo fisco parte dall'idea che siamo tutti criminali, è uno strumento da eliminare, dice l'economista Giulio Sapelli. Altri invece ne valorizzano alcuni aspetti positivi. Noi vogliamo sentire la vostra opinione all'800 24 00 24 quando terremo i fari accesi su questo aspetto, anzi telefoni, cioè dalle 9. Andremo anche sui banchi di scuola oggi insieme, perché parleremo di ignoranti autorizzati. Proprio così. Secondo Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che ha pubblicato una lettera accorata su Repubblica sulla sparizione della geografia dall'ordinamento scolastico, così come l'aveva riformato la riforma Gelmini, accorpamento più che sparizione totale da alcuni istituti è proprio scomparso. D'altronde non serve, per esempio, negli istituti nautici, a che ti serve conoscere la geografia? Si devono essere detti al ministero. Domanda legittima? Comunque, come si può vivere senza conoscenza del territorio e senza geografia? Si è interrogato Carlo Petrini, si adirano gli insegnanti di geografia, e noi? Noi cosa abbiamo perso senza questa materia? Ne discuteremo tra poco con voi e con loro. Prima però, annunciato da questa musica struggente, Women of Ireland, ve la ricordate? Forse in Barry Lyndon l'avete sentita, una canzone composta da Sean O'Riada, ed è stata resa nota forse in questa cover proprio nel film di Stanley Kubrick, ma era già nota in Irlanda. Patrick Agnew, welcome, buongiorno. Buongiorno Irene. E Patrick, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Cosa ti ricorda questa musica? Ma questa è musica di Sean Reed. Reed era un grande, quasi l'unico compositore moderno che è riuscito a fare una musica lirica sulla base della musica celtica. Perciò lui è rimasto molto importante nella storia irlandese. Poi vorrei raccontare una piccola cosa per dire che non è solo in Italia che cose spiacevoli succedono. Questa Rieda ha fatto una serie di trasmissioni alla RAI irlandese, RTE, e a un certo punto, visto che era già morto e nessuno se ne occupava, hanno preso tutti i nastri di queste trasmissioni e le hanno buttate. Ah beh, certo, si chiama tutela del patrimonio artistico, anche noi italiani siamo abbastanza specialisti in questo. Questo si chiama distruzione del patrimonio artistico, l'hanno distrutto. Stavo scherzando naturalmente, Patrick. E tu hai segnalato un'affinità, no, tra italiani e irlandesi, a volte questa trascuratezza per quelle che sono le proprie ricchezze. Ieri, andando sul tuo Irish Times, ho notato nella risposta e nella rabbia delle persone rispetto a certe notizie di cronaca che arrivano dall'Irlanda, una comunanza anche di linguaggio. Ho notato che anche gli irlandesi parlano di sé a volte arrabbiati come Stato Repubblica delle Banane. Sì. Guarda, gli irlandesi hanno sofferto non poco negli ultimi anni, perché c'è stata una crisi, che sappiamo tutti quanti, una crisi che era più una crisi bancaria, del sistema bancario, che non del sistema industriale, ma comunque gli irlandesi hanno sofferto tanto, hanno pagato un prezzo abbastanza caro. Nel senso che l'emigrazione, che sembrava una cosa del passato, è tornata. Non so quante sono adesso, intorno a 1000 persone lasciano l'Irlanda ogni settimana, 1000 irlandesi che sono stati ovviamente estrutti in ogni Irlanda. Settimana? Hai detto 1000 persone ogni settimana? Più o meno, sì. Questi sono i dati dell'anno scorso. Senti, tu parli nei tuoi pezzi della rabbia degli italiani. Sì. Lettera da Roma, uno dei tuoi pezzi più recenti. La rabbia degli italiani che si concentra, secondo te, proprio sui costi della politica. Spieghi che solo il personale della Camera dei Deputati, all'infuori dei politici, costa qui in Italia ai contribuenti 500 milioni di euro, e racconti questa insofferenza. Racconti molto bene questa situazione che tu osservi ogni giorno. Da quanti anni vivi in Italia? Ma io sono qua dall'85. E di conseguenza, insomma, hai avuto modo di vivere diverse ondate, diverse pagine della storia e della politica. Ti sembra un elemento nuovo questa irritazione degli italiani? Pochino sì. Sai, quello che mi sembra un'espressione di questa rabbia è il voto incredibile che ha avuto il movimento 5 Stelle. Perché sappiamo tutti quanti che ci sono in tutta Europa movimenti così, movimenti simili, ma non sono di questi movimenti nei paesi anglosassoni, nei paesi nord europei, nessuno ha preso il 25% del voto, nessuno è stato, ha avuto il peso che ha il movimento. E lo so che il Grillo e i Grillini, il movimento, sono stati molto criticati perché si sono comportati ovviamente in modo abbastanza dilettantesco quando sono entrato in politica. Questo è ovvio, ma comunque è un'espressione, per me è un'espressione molto sana della politica, nel senso che tutta una serie di persone che non sono mai entrate in Parlamento prima, che non sono politici di professione, vuoi dire? No, ma che non venga di una casta di privilegiati, di ricchi, che sono persone normali, che loro entrano in Parlamento è una buona cosa, che entrano in Parlamento e non sanno cosa fare, come è successo, e non è una buona cosa. Sì, ma non è che il nostro Parlamento sia mai stato riempito, insomma, semplicemente da statisti e persone che poi hanno fatto la storia della Repubblica, per cui quando tu parli del non saper cosa fare in Parlamento potremmo aprire dei capitoli molto sì, certo, lunghi e articolati, certo, che vanno certo, ben certo, prima dall'ingresso di persone che non avevano esperienza politica. Quindi per te questo, e lo racconti nel tuo articolo, è segno invece di uno stato, un segno di vitalità e di uno stato di salute della politica italiana. Poi tu fai racconti anche e della rabbia, naturalmente, degli italiani verso il fisco, non in quanto amino evadere, racconti, ma perché c'è la percezione, c'è la sensazione che siano soprattutto i pesci piccoli coloro che incapperanno nelle ganasce del fisco e nei controlli, mentre gli altri, che hanno la possibilità di rivolgersi a commercialisti di grido che si avvalgono di scappatoie internazionali, potranno sempre farla franca. E tu tutta questa rabbia la metti in bocca a un tale Giovanni, di cui non indichi il cognome. No, Giovanni, siamo io sì, e te, puoi dirlo. No, Giovanni gestisce il vivaio vicino a noi. E cos'è che gestisce un? Vivaio. Vivaio, quindi è un fioraio. Esiste, sì, allora fioraio, questo Giovanni? E siccome la mia signora compra in continuazione fiori, passiamo spesso da lui. Lo conosciamo da 20 anni. Ho detto a Giovanni, potrebbe essere qualsiasi altro, perché il discorso che mi ha fatto l'altro giorno, che ho raccontato nella lettera di Roma, mi hanno già fatto tanti altri. Quindi per te Giovanni è un po' un simbolo, cioè dai voce a Giovanni, ma dai voce a un segmento dell'Italia, per te è importante. Certo. E ho trovato toccante il tuo articolo da Pozzuoli, ai funerali, tu c'eri. Sì, ma guarda, per me queste cose sono tristissime, e poi più vivi in Italia, più fai queste esperienze, che sia l'Aquila, che sia Costa Concordia, ma stai, che sia questi poveri immigrati che arrivano nei Lampedusa. Ti trovi spesso ai funerali a vedere gente che stanno soffrendo, che stanno male, e spesso è gente che è povera, e francamente lì sembrava una cosa assurda. Perché, un articolo breve che parla di questa sofferenza di queste persone, accompagnata però dalla scarsa sincerità dello Stato assente come sempre, e scatti una fotografia, è proprio così, un'istantanea, perché racconti di come questa gente povera ancora una volta in Italia sia all'interno di un edificio pubblico un pochino fatiscente e tristanzuolo, diciamo così, e in questa cerimonia di solidarietà ci sono varie autorità. Ma mentre guardi il ministro dei trasporti, in questo caso citi proprio lui, noti, ti giri e vedi qualcosa dietro di lui, che è il dettaglio sul quale poi si fonda l'articolo. Cosa hai visto? No, mentre stavano l'altro giorno a Monteforte Irpino, mentre stavano portando fuori le barre, la gente, sai, la gente piangeva, applaudevano, eccetera, eccetera, dietro al palazzo, perché era una scuola, dietro la scuola c'era il ministro Maurizio Lupi, che stava per partire. Allora ovviamente lui ha tenuto una piccola conferenza stampa, ma nello stesso momento che stavano portando fuori queste barre, perché lui aveva la sua scorta, 5 macchine, 20 persone, avevano fatto tornare a Roma, immagino, non lo so, ma mi ha colpito che lui stava lì dietro il palazzo a parlare con noi, a rispondere alle nostre domande, dall'altra parte si portavano fuori le barre. E tu noti nel tuo articolo, cioè era questo caravanserraglio. C'erano 5 macchine almeno. Dici di queste macchine che accompagnavano il ministro e che non si sono degnati nemmeno di spegnere i motori durante il funerale, cioè che lo tenevano accesi questi motori, e tu noti il contrasto e questo rumore di fondo, e quindi scrivi: si notava la voglia dello Stato ancora una volta di andarsene da qua il prima possibile. Ma almeno simbolicamente sembrava così. Un pezzo eccellente, decisamente uno spaccato che in poche righe racconta questa sorta, non di ipocrisia, ma di assenza costante da quelle che secondo te sono le sofferenze dell'Italia, e le sofferenze soprattutto del Sud Italia. Sì. E tu lo definisci fatalista, il meridione italiano, perché? Perché, ma lì la risposta sarebbe lunga, ma il sud dell'Italia c'è un problema, quasi unico problema, si chiama crimine organizzato. Finché non vince quella battaglia, non vince niente nel sud Italia. Non dico niente che non sappiamo tutti, ma poi solo il fatto che quel tremendo incidente l'altro giorno, c'è chi dice che le strade non erano mantenute bene, che c'erano problemi con l'autostrada, ma allora chi mantiene le autostrade in certe parti di Campania e Calabria? Chi lo fa? Lo Stato? E trovi paradossale E trovi paradossale che questo Stato fosse presente in questa forma e non ci fosse nemmeno la rabbia verso queste lacune che poi hanno portato a quella che è stata liquidata come incidente. Tragedia, aveva delle precise responsabilità, segnali tu. Patrick Agnew, grazie per questo sguardo, naturalmente grazie per il tuo lavoro. Qual è il prefisso telefonico di Dublino? Prefisso telefonico di Dublino? Sì? 00353 Grazie, 1351. grazie. È una richiesta di un ascoltatore, ci è arrivata proprio in zona Cesarini in questa conversazione con te. Grazie a Patrick Agnew, corrispondente dell'Irish Times, oggi è stato con noi. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Beh, è proprio una celebrazione alle meraviglie del mondo, sì, questa canzone di Sam Cooke, ma soprattutto una lettera che abbiamo trovato su Repubblica la settimana scorsa. 33 minuti dopo le 8, ancora un saluto da Irene Zerbini e da me un grazie al relatore, allo scrittore di questa lettera, Carlo Petrini, buongiorno. Buongiorno. La devo ringraziare perché ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti importanti. Lei si è chiesto che cosa perdiamo se perdiamo la geografia. Allora, Carlo Petrini, come sapete, è il fondatore dell'associazione Slow Food, è un giornalista, uno scrittore italiano, e si è fermato a riflettere su una scadenza, perché sono passati 4 anni dal cosiddetto riordino Gelmini. Cos'è che era questo riordino Gelmini, Carlo Petrini? Beh, è stata una, come dire, una rivisitazione delle materie e dei vari istituti, dei licei classici, licei linguistici, istituti tecnici, e all'interno di questo riordino, con riferimento alle materie di studio, è stata fortemente penalizzata la geografia. E questo, a 4 anni da questa scelta, la reazione non solo mia ma di tutte le persone comincia a diventare, come dire, una reazione di sorpresa. E dunque, queste sono parole sue, io penso spesso, dice Petrini, nei miei tanti viaggi, penso a quanto oggi è possibile sapere e conoscere di un territorio anche senza spostarsi, però l'accesso all'informazione non significa di per sé acquisire competenze, perché per quelle ci vuole un processo più lungo e possibilmente ben guidato, che si chiama genericamente scuola. Ma lei si sente anche dire dalle persone: ma perché studiare la geografia? Oggi quello che io ho bisogno di sapere te lo può dire un navigatore satellitare, Petrini. Pronto? È una contestazione che c'era stata segnalata da Petrini e da coloro che sostengono invece questa eliminazione, che poi di eliminazione non si tratta, ora cerchiamo di recuperarlo, quanto più che altro di accorpamento e in alcuni casi di svalorizzazione decisamente. Ma per raccontare tutto quello che è successo nell'ordinamento scolastico italiano è con noi oggi Paola Pepe, che ringrazio e saluto. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Ebbene, Paola Pepe è una socia dell'Associazione Insegnanti di Geografia. Lei insegnava nell'Istituto Nautico Geni Trabia di Palermo, ora non ci può insegnare più perché è stato deciso che nell'Istituto Nautico la geografia è completamente superflua. Sì, e questo ci colpisce molto, perché è la cosa che soprattutto colpisce la gente, il fatto che all'Istituto Nautico sia stata eliminata la geografia. Però non è l'unica, come lei ha detto, svalutazione della materia, perché innanzitutto noi siamo gli insegnanti che hanno insegnato soprattutto la materia necessaria per capire la globalizzazione, per capire la complessità del mondo. Parliamo di studi sul clima, parliamo di come viene influenzata l'economia, dalle risorse, dalla popolazione. Parliamo di come bisogna alimentarsi, di vari argomenti che riguardano sostanzialmente come ci si pone davanti al mondo. L'essere umano e soprattutto l'essere umano moderno. Ma le devo chiedere una cosa, professoressa. Certo non è l'argomento sul quale poi si può fondare una riforma, ma i ragazzi, i suoi studenti, la vorrebbero studiare questa materia? Cioè ne sentono la mancanza? Sì, sì, assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda l'Istituto Nautico di Palermo, sì, perché molti sono i ragazzi che mi hanno dato solidarietà, mi hanno detto: ma professoressa, com'è possibile che sia stata eliminata la materia? Questo è fondamentale, noi dobbiamo sapere, ci dobbiamo orientare, dobbiamo conoscere i territori. Quindi in realtà i ragazzi lo sentono questo. Lo sentono come bisogno. Loro. Sì, perché lei sa bene che... se possono semplificarsi il lavoro, forse questo li facilita, però è chiaro che sentono bene queste esigenze. Sono comunque consapevoli e tra poco torneremo naturalmente a parlare con voi insegnanti. Carlo Petrini, l'abbiamo riacciuffata, pronto, è con noi? Ecco, lei che per la geografia, diciamo così, per il territorio ha fatto di più che l'inventore del mappamondo, è interessante notare, come diceva la professoressa, questo intreccio tra conoscenze, competenze e conoscenze del mondo, conoscenze non solo del clima o di un nome in materia nozionistica, ma conoscenze di come gli esseri umani hanno agito sul territorio. Lei che reazione ha avuto dopo la pubblicazione di questa sorta di lettera denuncia sulla Prima di Repubblica? È stato contattato? Cosa le hanno detto? Ma centinaia di messaggi, ex professori di geografia, ma anche gente normale, cioè si sente proprio che il nesso tra l'esigenza che ha questo nostro paese di conoscere bene i propri territori, sì, dal punto di vista anche della valorizzazione non solo dei beni culturali, ma anche della diversità, della produzione alimentare, con la conoscenza della geografia è molto molto forte. Quindi siamo tutti un po' più poveri, specialmente anche nella nostra formazione, non è una cosa di poco conto, e quindi la reazione è stata veramente molto molto molto forte. Molto sentita dunque. Non le ha scritto nessuno criticando le sue argomentazioni? Il partito dei navigatori, diciamo così, navigatori satellitari intendo, quelli che ti dicono a che bisogno c'è, tanto abbiamo il tom-tom, tanto abbiamo il navigatore, non le sembra preponderante, non le sembra rilevante. Lei ha notato come questa mancanza nel riordino dell'insegnamento della geografia sia avvertita invece come lacuna, soprattutto in un paese in cui buona fetta del PIL è costituito dal turismo. E lei, Petrini, si interroga proprio su cosa racconteranno i nostri operatori turistici, a chi ci viene a trovare da fuori, ai turisti. E come trasmettere un amore per un territorio che si conosce poco o si conosce sempre meno? Come si può porre rimedio a questa mancanza, Petrini? Ma non c'è dubbio che, per esempio, quella tendenza dei tom-tom ci sta impoverendo. Io reputo questi strumenti molto utili quando arrivo in una città, ecco, mi dà l'opportunità di arrivare in un indirizzo specifico, ma mettere il tom-tom a chilometri di distanza e attraversare intere aree semplicemente da questa voce che ci dice gira a destra, a terza rotonda, alla quarta, è un impoverimento incredibile. Io sono tornato all'uso delle carte, ecco, perché così pensando, quanti chilometri ho ancora da fare. Purtroppo vedo molta gente che si lascia impoverire e non guarda neanche fuori dal finestrino. Grazie mille. E arrivare, partire dal punto A per arrivare al punto B. Stop, finito. Inaridimento del percorso e si punta solo alla meta senza nemmeno guardare fuori. Grazie mille a Carlo Petrini che ha sollevato la riflessione su questo problema molto sentito. Vogliamo sentire noi però le vostre voci. Guglielmo, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho 62 anni. Sì. Allora, mio nipote ne ha 30. Andavamo in giro con i rispettivi camper. Allora, lui andava avanti e io andavo indietro, però io conoscevo benissimo la geografia, mentre lui andava con questo tontomme avanti. Beh, sapessi quante volte si ho dovuto indicare la strada, tutto quanto, e praticamente mi faceva un sacco di risate. È stata la sua vendetta sul nipote, sull'era satellitare. Ma lei conosceva la geografia o apriva anche una cartina? Al 100%, ero più bravo della scuola. Ah, eccola qua, eccolo qua, uno dei campioncini che ci sono stati raccontati anche in un film di Troisi. Questi campioni della geografia ci sono stati raccontati in maniera molto simpatica anche in un film che poi vi proporremo di Troisi, con una frase che è diventata una sorta di tormentone. Ora andiamo in provincia di Milano, grazie a Guglielmo. Pronto, Claire? Ah, buongiorno. Buongiorno. Allora, sì, la mia testimonianza riguarda il fatto che io sono francese. Sì. E io vivo in Italia da una quarantina di anni. E in Francia? Dunque conosco... In Francia, che lei sappia, anche se vive in Italia prevalentemente, ormai naturalmente avrà dei contatti, la geografia ha perso di significato e valore come nel nostro ordinamento scolastico o è ancora tenuta in conto? No, non mi risulta affatto, anzi è molto studiata, è sempre stata studiata. È studiata insieme alla storia. La geografia è molto importante anche per i francesi proprio. Sì, e io ho sentito sempre molto l'ignoranza degli italiani verso la conoscenza del territorio. Sapesse quante persone mi hanno detto: ma Parigi dov'è? Cioè è a sud? Dov'è? A nord, a sud, a est, a ovest? Proprio non sanno localizzare le cose. E questo, a parte qualche appassionato come il signore di prima, magari, cioè lei che qualcuno è appassionato. Lei ha notato, come preparazione di base anche prima del riordino Gelmini, da francese che vive in Italia, un gap, un dislivello nella conoscenza media del francese dal punto di vista geografico e nella conoscenza media dell'italiano? Quando mia figlia era piccola, la geografia era lasciata alla sua volontà. Studiate 3 pagine di geografia e mi mettevo io con mia figlia a leggere le pagine, a spiegargli il territorio, insomma, ad aiutarla, perché l'insegnante non era molto portata, non gliene portava niente. Grazie a Claire e a questo racconto di una mamma, portatrice di 2 culture in questo caso, che ha fatto un confronto tra la scuola che ha frequentato lei in Francia e la scuola italiana. Sul tema geografia non ne usciamo bene, nemmeno con le ossa rotte, come voleva indicarci questa signora francese, ma tra poco daremo la voce proprio a voi, professori. 800 24 00 24, stiamo parlando della perdita della geografia e soprattutto di cosa si perde come conoscenza del territorio, come cittadini, non solo come studenti, quando viene meno uno strumento di questo genere. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Cioè non può raccomandare. Ma no, perché veniva prima di me. Io dico, se ero il quinto, sesto, settimo, io lo dicevo. Lo sapevano tutti, era il nipote del segretario. Allora sai, professore, d'accordo, no? Specialmente quella là di geografia. Proprio d'accordo, ogni balocco, dimmi un argomento a piacere, balocco, dimmi un argomento a piacere. E lui qui c'è sempre il Giappone. Poi siamo stati 3 anni insieme, terzo, quarto e quinto, in geografia balocco, sempre interrogato sul Giappone. Che poi si era imparato 2 o 3 cose, no? E diceva sempre che, cioè dimmi un argomento a piacere, che vuoi parlare, il Giappone. E cominciava di jet, no? Il Giappone, i giapponesi sono bassi ma di pronta intelligenza. Basta. La professoressa, ma proprio perché erano d'accordo con il dottor segretario, va bene, vedo che sei preparato, vai a posto, capito? Subito. Ma se per esempio lui doveva dire la densità oppure le risorse minerarie del Giappone, non sapevo. Solo il Giappone, per lì sono bassi ma di pronta intelligenza. Sembra che anche Troisi lo sottolinei, eravamo ignoranti in geografia ben prima della riforma Gelmini, questo era tratto da Scusate il ritardo, e c'è questa scena esilarante in cui Troisi, cercando di sedurre la Giuliana Dessio, la avvicina con i suoi ricordi sulla fantomatica lezione di geografia. Ora di lezioni di geografia ce ne sono sempre meno in Italia, e cosa ci stiamo perdendo in seguito a questo deterioramento e di ore, addirittura sparizione totale della materia da alcuni istituti. Avete sentito con Paola Pepe, che è ancora con noi e che chiameremo in causa tra pochissimo ancora una volta, insegnante di geografia, addirittura costretta a lasciare l'istituto nautico perché è completamente sparita dal programma, dall'offerta formativa di quel tipo di scuola. Parola agli ascoltatori velocemente. Ornella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire che io ho 65 anni e quando ai miei tempi si andava a scuola, la geografia voleva dire anche studiare la situazione fisica dei luoghi, che cosa si produceva in certe località, quindi avere un quadro che andava ben oltre la geografia stretta. Mio figlio, che ha 35 anni e si è diplomato in un istituto tecnico nel 2000, non ha mai fatto geografia dalle medie in poi. Quindi lei dice ben prima della Gelmini, in realtà... Sì, la Gelmini stavolta non ha nessuna colpa. Era stato eroso l'insegnamento della geografia. E secondo lei è un bene o un male? Cioè questa mancanza di geografia nella preparazione di suo figlio è qualcosa che fa l'uomo di questi tempi e di conseguenza non se ne sente l'esigenza nell'era moderna, o è meglio tornare? Allora, io le ripeto, la geografia che facevo io era molto formativa, perché di un luogo io conoscevo la situazione fisica, oltre che geografica, quali erano i prodotti agricoli e non. E quindi una ricchezza che si è persa, mi sembra, esatto, di capire dalla sua opinione. Era Ornella, una materia molto molto importante. Grazie, grazie mille. Ornella ci ha chiamato da Bologna, andiamo in provincia di Torino. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Matilde. Matilde, buongiorno. Sì. Io sono un'insegnante di scienze e di geografia, perché sono abilitata per entrambe le materie, e mi faccio questa domanda dal momento in cui c'è stato questo riordino. Qual è il disegno che c'è dietro coloro i quali decidono rispetto al peso degli insegnamenti all'interno della scuola? Io insegno in un istituto tecnico del settore economico, faccio appunto sia scienze che geografia, sono state entrambe ridotte come se queste due materie, questi due insegnamenti non fossero... Non servissero, non fossero di grande attualità. E lei che risposta, esatto, si è data intanto? Lei si fa la domanda perché? Perché ridurre la geografia è che un embrione perché di risposta... Perché ridurre la geografia? Perché ridurre le scienze, che sono le due materie che insegno io, che appunto sono insegnamenti che disegnano la mente del cittadino, non solo del futuro ma anche del presente. Chi ha deciso in base a cosa? Perché la mia impressione, la nostra impressione, è che siano state decisioni prese non tanto da Gelmini o figure politiche, quanto piuttosto da funzionari del Ministero, i quali... Con un tratto di penna hanno così razionalizzato il programma. C'è anche chi ci dice, grazie a Matilde per aver sollevato questa domanda, che è meglio valorizzare l'informatica. invece che la geografia, ce lo segnalano tra gli interventi, gli ascoltatori, al 349-238-6666, sto parlando di coloro che utilizzano l'SMS, e chi se ne frega della geografia quando sarebbe più importante avere insegnamenti più intensi di diritto, c'è chi dice anche questo, e poi io mi godo il territorio anche usando il TomTom e di conseguenza non c'è bisogno dell'insegnamento della geografia. Voci un po' controcorrente, ve le segnaliamo, perché c'è anche questo. Professoressa Paola Pepe, ha sentito allora, la domanda della sua collega, cosa c'è alla base di questo riordino e di questo impoverimento, secondo la maggioranza delle segnalazioni che abbiamo? Questo è qualcosa che ci siamo chiesti noi docenti di geografia, soprattutto all'interno dell'Associazione Insegnanti di Geografia. Il professor De Vecchis, che è il presidente dell'associazione, ha scritto un libro, A scuola senza geografia, che ha fatto pervenire al MIUR, dove ci sono delle riflessioni che abbiamo fatto un po' tutti insieme. Ma in realtà è da 3 anni che ci chiediamo, ci facciamo questa domanda che lei mi ha posto. Intanto già da prima della riforma sicuramente la geografia era penalizzata perché aveva un numero di ore molto ridotto rispetto ad altre materie, quindi in realtà è per questo che si insegnava poco, perché effettivamente c'era poco tempo da dedicare alla materia. Poi c'è un po' di confusione nelle classi di concorso che insegnano questa materia, perché viene fuori che anche docenti poco specializzati nell'ambito geografico possono insegnare la geografia. E questo non c'era prima, è soprattutto dovuto a delle circolari ministeriali che sono uscite nel corso dell'applicazione della riforma sostanzialmente. Poi ho sentito dire una cosa divertente, come valorizzare l'informatica rispetto alla geografia, e forse non si sa che già l'informatica ha un numero di ore nelle scuole superiori che è maggiore della geografia. E io devo fare una mia riflessione: in realtà è vero che i ragazzi utilizzano molto gli strumenti informatici, il computer, lo smartphone, però è non solo i ragazzi, penso tutti ormai, no? Sì, ma parlando soltanto dei ragazzi, volevo dire che spesso mi sono accorta che lo usano male lo smartphone, spesso non sanno cioè come fanno realmente ad utilizzare uno strumento informatico che per esempio utilizzi la geolocalizzazione senza conoscere effettivamente i territori che devono... Cioè le due cose dovrebbero andare insieme. Ora facciamo un punto: nei licei l'insegnamento della geografia non esiste più in forma autonoma, in quanto è accorpato con storia, 3 ore settimanali. Sì. Negli istituti tecnici commerciali la materia geografia, che prima si studiava solo nel triennio, ora si studia solo nel biennio, quindi si è perso un anno. Nel triennio si fa poi relazioni internazionali e geopolitica con insegnanti di diritto e di economia aziendali. Negli istituti tecnici e professionali non si fa più geografia nel biennio, e negli istituti nautici per il turismo alberghiero, questa è la cosa che più ha fatto clamore, l'abbiamo segnalato questo paradosso, l'insegnamento della geografia è stato eliminato. Alessandro, buongiorno. Pronto? Io volevo soltanto... Mi sente? Sì, da dove chiama? Sì. Ma io chiamo dalla zona di Parma, anche se io sono genovese. Io il nautico l'ho fatto a Genova, l'ho fatta la geografia perché l'ho fatta dall'82 all'86, il nautico, quindi l'ho fatto là. Serve la geografia, forse andrebbe insegnata in maniera differente. Io me la ricordo, a me piaceva, la facevo, ma la facevo in maniera tradizionale, con i libri, e finita lì. Adesso si potrebbe fare in maniera differente, probabilmente renderla appetibile non soltanto ai giovani ma anche ai grandi, perché molti grandi, fra virgolette, avrebbero bisogno di geografia, e renderla appetibile e anche più moderna nella forma, con strumenti che accorpino e che includano anche la tecnologia. Saluto Guido Locarno, buongiorno professore. Buongiorno. Ecco, lei è professore di geografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal suo osservatorio, gli studenti che invece geografia la scelgono all'università sono motivati? Direi che è stupefacente vedere che ci sia ancora qualche giovane che sceglie la geografia dopo che la geografia è stata svilita per tanti anni. Quindi quando entrano al corso lei li ringrazia, cioè rimane ancora sbigottito che l'abbiano inclusa. negli insegnamenti. Però c'è una grossa percentuale di studenti che ha una brutta opinione della geografia, perché e questo è l'effetto di una riforma che è anteriore alla riforma Gelmini, ecco, mi parte molto da lontano questo svilimento della geografia. La geografia è purtroppo assegnata a docenti non specialisti che la riducono a una materia molte volte nozionistica. Io, cioè a volte arida, lei dice, quando potrebbe essere la ricchezza proprio per antonomasia, è semplicemente così come abbiamo sentito quasi nel film di Troisi, il Giappone. Sì, sì esatto, no, il film di Troisi era, è un emblema un po' di un modo di insegnare geografia ormai da 20-30 anni. Beh, speriamo le cose siano cambiate, ormai nella classe insegnante c'è un rinnovamento. Ecco, no, purtroppo tutto questo ha portato alla perdita di due generazioni, una generazione di insegnanti non specialisti che sono stati messi a insegnare geografia in maniera, se vogliamo, poco rinnovata, ma molto molto nozionistica, che quindi lasciano un brutto segno sugli studenti, e poi c'è tutta la generazione di quelli che, degli studenti di ieri che diventeranno insegnanti domani e che non sono preparati ad affrontare l'insegnamento della geografia. E tutto questo è sconvolgente perché abbiamo perso due generazioni di formazione geografica. La geografia non è una materia fine a se stessa, ma è una materia che apre una conoscenza del mondo, è trasversale a tutte le materie. Non si può pretendere di capire la storia, con cui è molto molto legata intimamente, di capire la storia. Grazie al professor Guido Locarno, un argomento che ci appassiona. Cosa perdiamo se perdiamo la geografia? Ora però dobbiamo dare la linea al GR, torneremo insieme dopo le notizie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Abbiamo girato la boa delle 9, buongiorno ancora, perché si fosse unito da poco, 6 minuti dopo le 9, buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo parlando di geografia questa mattina, perché è stato in qualche modo puntato il dito su questa erosione, su questa svalorizzazione della geografia. Carlo Petrini l'ha ricordato sulla Prima di Repubblica la settimana scorsa, e quando lui si è fermato a riflettere su questo accesso alle informazioni che oggi contraddistingue l'epoca in cui viviamo, ma che di per sé non aiuta l'acquisto di competenze, che solo l'insegnamento sistematico sul territorio può in qualche modo alimentare e mantenere. Le reazioni sono state numerose le reazioni anche ai nostri microfoni, i vostri SMS. Abbiamo segnalato tantissimi che piangono la sparizione dell'ora di geografia, o come abbiamo specificato in alcuni casi l'accorpamento o la sparizione dal triennio, si studia ora solo nel biennio in alcuni istituti tecnici, nei licei non esiste più in forma autonoma. Insomma, sono stati diversi tagli che si sono fatti in questa materia. Volevamo capire da che parte stavate. Non possiamo dire che la platea sia spaccata, decisamente è la maggioranza quella che vorrebbe un recupero della geografia, magari riveduta in chiave moderna per quel che riguarda l'insegnamento, ma assolutamente il recupero della materia in sé, composizione del suolo, storia economica, sociale, guerra e religione, è tutto intrecciato nella cultura di un territorio. Professor Guido Locarno, concludiamo questa discussione con una ricetta. Come fare dunque perché si possa tornare non solo a studiare la geografia nelle scuole, ma a dare alla materia il giusto valore? Lei ha detto questa perdita risale a ben prima del riordino Gelmini, è in qualche modo una perdita culturale, una perdita che già c'era nella mentalità corrente. La geografia si considerava un po' la Cenerentola delle materie, professore. Io vedo che i miei studenti sono particolarmente appassionati di geografia quando si lega al territorio, quando si lega all'ambiente. Allora vogliono capire come funziona l'ambiente, come funziona la superficie terrestre. Quindi non soltanto giustamente la geografia fisica, che è una base degli studi successivi, ma anche gli studi ambientali, si sente parlare di effetto serra ma non si sa come funziona, non si sa come si distribuisce sul territorio, non si sa quali sono le cause. Ecco, gli studenti arrivano all'università con delle lacune pregresse enormi che cerchiamo di tamponare in qualche modo, ma la geografia soprattutto deve essere una materia legata all'economia e allo sviluppo politico della superficie terrestre. Proprio in un'epoca di globalizzazione gli studenti vogliono capire perché ci sono delle guerre in Medio Oriente che durano da 60-70 anni, perché ci sono dei conflitti in atto che hanno delle radici ancora nell'Ottocento. Ecco, in questo senso la geografia si lega molto alla storia, ma dà la dimensione territoriale, spaziale del fenomeno. Ecco, gli studenti che hanno una risposta di questo tipo sono... Si innamorano della geografia. Grazie al professor Guido Lucarno. Come si fa, si chiedeva anche Carlo Petrini, in futuro raccontare le peculiarità dei pascoli lucani se si fa fatica anche a ricordare dove si trova la Basilicata. Cambiamo pagina ora perché parleremo di un tema che sta a cuore a molti e colpisce i più. Fisco, reddito, siamo davvero tutti criminali? Siamo tutti evasori? Ora prenderemo le telefonate su questo tema, 800 24 00 24 per i vostri contributi oppure sms 349 238 6666. If you drive a car, tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Tax man. Un sempreverde, Taxman, questi erano i Beatles. Di tasse si parla spesso e di gettito fiscale del primo quadrimestre che ha fatto segnalare, non dico un'inversione di rotta, ma un segnale positivo. C'è stato un incremento infatti del gettito derivante dalle imposte dirette, più 4,5%, una flessione invece per quel che riguarda le entrate derivate dalle imposte dirette, meno 3,8%. E quando si parla di fisco, inevitabilmente in questi giorni ci si imbatte nella ansia da redditometro, la paura del redditometro. Come fare per difendersi? Un approfondimento a cui si è dedicato anche ieri il Sole 24 Ore, perché a volte, al di là naturalmente dei commenti e della soddisfazione che suscitano i controlli fatti sugli evasori o su quei segmenti che si identificano come potenziali evasori più di altri, a volte si incappa nelle maglie del fisco e dei controlli anche quando si è completamente in buona fede, anche quando la volontà di evadere assolutamente non caratterizzava il proprio comportamento. Dunque, come deve essere un fisco di oggi? Perché il fisco che conosciamo parte sempre dall'esigenza di gettito, cioè le regole che ne stanno alla base non partono tanto da esigenze di equità e di capacità contributiva, come sancisce anche un articolo della Costituzione, il numero 53. E il sistema fiscale moderno di uno Stato che non considerasse i cittadini sempre in partenza dei colpevoli che poi devono provare la loro innocenza, a quali principi dovrebbe essere improntato? Questa è la domanda che ci siamo posti oggi. Buongiorno a un commercialista innanzitutto, non potevamo procedere in questa trasmissione senza di loro, Marco Di Martino, giovane brillante commercialista di La Spezia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E questo redditometro, il voto che date voi del settore, serve veramente a stanare il sommerso? Può rivelarsi uno strumento efficace o è semplicemente un'altra di quelle ganasce che poi finirà a bloccare le ruote, sì, ma quelle dei cittadini onesti invece lascerà che i pesci grossi, coloro che il fisco lo sanno aggirare con ben più risorse e ben più strumenti, se la godano altrove? Qual è il vostro giudizio da professionisti del settore? Ma io penso che il principio di fondo sia di fatto un principio corretto, perché fondamentalmente è un principio matematico. Se io spendo 10, devo aver guadagnato almeno 10. Il problema sarà vedere poi come verrà attuato, diciamo, in fase applicativa, nel senso che all'inizio sembrava che, oltre alle spese certe che il fisco, di cui il fisco ha conoscenza, dovesse basarsi anche su presunzioni di spesa derivanti da medie Istat. Ecco, questo già è un elemento che potrebbe diciamo inficiare la correttezza del criterio, perché ovviamente la propensione a una spesa piuttosto che un'altra è una scelta assolutamente soggettiva. Quindi, diciamo, se il principio di base è sicuramente corretto, bisogna vedere che, verificare che venga, diciamo, applicato correttamente e che non vengano, diciamo, diciamo, fatte delle presunzioni che imporrebbero al contribuente di dare una, diciamo, una prova negativa, che ovviamente di per sé è impossibile da dare, perché io non posso dare una prova di ciò che non ho speso. Io devo dare una prova di avere il reddito per sostenere ciò che ho speso. Un elemento critico è anche la retroattività, perché lo si capisce bene con il buon senso, è ben più facile dare una prova di ciò che si è speso pur non avendo la copertura a disposizione, nel senso che è stata frutto di una regalia, di una donazione, di un risparmio precedente. Qualche mese fa, piuttosto che riuscire a ricordare, a provare certe movimentazioni che risalgono al 2009. Esattamente, esattamente. Un aspetto di criticità è sicuramente la retroattività di questo nuovo strumento che appunto è applicabile dal 2009 e presuppone di dover dimostrare o oggi le fonti di finanziamento di eventuali spese sostenute nel 2009. Però per poterle dimostrare tutte queste fonti di finanziamento devono essere tracciabili, devono essere state tracciate. Per cui se ad esempio ho sostenuto una spesa e le fonti di finanziamento derivano da una regalia di parenti, genitori, se questa regalia non è avvenuta con mezzi tracciati, bonifici bancari, oggi è fondamentalmente impossibile andarla a dimostrare. Quindi si va a chiedere una prova relativamente a un periodo in cui questa prova non era necessaria. Quindi se per il futuro, diciamo, ci si può organizzare, per il passato potrebbe risultare più difficile farlo. Sentiamo ora gli ascoltatori, 800 24 00 24 349 238 6666, stiamo prendendo in esame questo nuovo redditometro e soprattutto come il contribuente può non solo fornire delle prove adeguate nel caso ci sia un controllo, ma quali sono le, diciamo così, le prove da produrre. Noi ci siamo chiesti, ma il principio che sottende a questo redditometro, queste regole che a volte sembrano sempre più complicate, a cui si aggiungono pezzi sempre alla ricerca, naturalmente questo è in questo momento storico il fisco di ulteriore gettito, potrebbero essere cambiate, potrebbero essere migliorate per far sì che, chi è onesto e chi vuole essere in regola non si ritrovi poi invece ad affrontare problemi non ricercati, non meritati e possa magari attraverso una semplificazione avere un rapporto con il fisco caratterizzato da principi diversi. Roberto, buongiorno, pronto? Buongiorno, sono Roberto Corradi. Di Parma. Sì. Le volevo raccontare la mia esperienza perché è un po' emblematica dei rapporti che si possono avere col fisco. Quindi rimaniamo in ciò che è emblematico, in cui tanti si possono riconoscere, perché di esperienze veramente in questo campo ne abbiamo migliaia. Dica Roberto. Sì. Io sono dipendente di un'industria, sono dirigente, quindi ho un buon reddito, pago una buona quantità di tasse, mio padre mi ha lasciato una piccola attività artigianale che ho cercato di organizzare, ahimè non riuscendoci, e nel 2007 mi sono ammalato purtroppo gravemente, comunque sono ancora qui e sto lavorando, quindi vuol dire che... In bocca al lupo per la sua convalescenza, per la sua guarigione. Sì. Grazie. Ho chiuso l'azienda e sono passato da un fatturato di 1,5 milioni, 2 milioni di euro circa, a un fatturato di zero. Partito l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che è stato un accertamento molto vessatorio, tra l'altro i verificatori hanno commesso anche errori, uno molto grande sul magazzino, per cui il primo e quanti giorni l'ha impegnata questo accertamento? Perché questo ci interessa. Due anni, signora. I giorni mi pare siano 30, lei comunque è il tecnico, lo sa, ma i 30 giorni dell'accertamento sono frazionati, quindi io ero in chemioterapia, ma questo non c'entra. Queste persone continuavano il loro lavoro e una settimana, 10 giorni prima della scadenza, perché andasse in prescrizione l'accertamento, mi è arrivata la sanzione da pagare. Grazie. Grazie Roberto, io penso che questa storia sia decisamente emblematica, come aveva annunciato il diretto interessato, del tipo di rapporto viziato che ci può essere tra fisco e cittadini di fronte a una causa, come avete sentito, di abbattimento del reddito decisamente indiscutibile e plausibile. Franco, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica Franco, lei chiama da? Da Firenze. Dica. Voglio raccontare la mia esperienza. È sempre su accertamenti? Su un discorso, io non mi sento un evasore, non sono un evasore, non mi sento evasore, sento che lo Stato invece è un farabutto, è un grassatore, e le racconto la mia esperienza. Causa con lo Stato, un miliardo di 35 anni fa circa, motivo del contendere. Dopo oltre 30 anni di causa è arrivato in Cassazione, la Cassazione mi dà ragione, mi liquidano 5.000 euro di spese legali. Lei può immaginare se fra un miliardo di 35 anni fa le spese possono essere state 5.000 euro, già questa la dice lunga, va bene. Dopodiché lo Stato non vuole pagare nemmeno le 5.000 euro di spese legali. Metto un avvocato, faccio di nuovo causa per cercare di recuperare questi 5.000 euro. Dopo 2 anni lo Stato mi dice va bene, te li diamo ma senza interessi. E ovviamente non mi paga l'avvocato. L'avvocato mi dice senti, ma se noi ci mettiamo d'accordo mi paghi in nero. E quindi ti metto una cifra, ti faccio pagare una cifra inferiore. Io sono evasore o è lo Stato che è un grassatore? Mi domando. Grazie Franco, si è trovato di fronte al dilemma e alla base di questo dilemma, secondo lui un'ingiustizia. Tutto va interpretato e tra poco lo interpreteremo insieme. Vittorio, raccogliamo anche quest'ultima testimonianza telefonica. Pronto, buongiorno Vittorio. Buongiorno. Può abbassare la radio, c'è questo effetto eco suggestivo ma piuttosto fastidioso, sì. Dica Vittorio. Allora, no, volevo chiedere questo, mi dicono che sono in multa perché io avrei chiesto il rimborso di spese mediche 2 volte, cioè una volta alla fondiaria della mia società per cui lavoro, che privatamente danno un rimborso per le spese mediche, e poi avrei chiesto di nuovo il rimborso per le stesse spese mediche col 7,30 allo Stato. Cioè il 19% immagino. Esatto. E quindi lei dice perché ora mi multano. Questi sono tutti casi molto specifici a cui cercheremo di dare una risposta. E vogliamo però farci una domanda di base, cioè la filosofia che caratterizza non solo in Italia, anche all'estero, i rapporti tra cittadino e fisco deve essere esclusivamente di carattere vessatorio? Potrebbe essere improntata a un principio più cooperativo o questo è un sogno, questo è un'utopia, non si può che andare avanti così. Le abbiamo chiesto, e lo vogliamo chiedere anzi, all'economista professor Giulio Sapelli, che ringraziamo per il suo tempo. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E dunque, si parte un po' a volte dall'idea che siano tutti evasori potenziali, siano tutti criminali, ma è proprio così? Beh, innanzitutto sì, è così, perché tutta una serie di trasformazioni che ci sono state in questi ultimi 30 anni, si potrebbe dire, nel rapporto tra amministrazione dello Stato e soprattutto in quel segmento dell'amministrazione dello Stato che si occupa della estrazione fiscale, beh, devo dire che si è via via insinuata un'antropologia negativa, cioè una visione negativa del cittadino, quasi come se ci fosse una visione complessiva per cui siamo tutti colpevoli e dobbiamo essere tutti sorvegliati, sorvegliare e punire, si potrebbe dire col vecchio Foucault. mentre quando è nata nel secondo dopoguerra, quando abbiamo fondato le istituzioni repubblicane e col grande Ezio Vanoni, teorico del sistema fiscale, ma anche politico, ministro delle finanze, la famosa riforma Vanoni, la visione era di un'antropologia positiva, cioè c'era la possibilità di un confronto diretto tra la pubblica amministrazione e il cittadino che pagava le tasse e in questo modo esprimeva la sua fiducia nello Stato. Qualora l'amministrazione avesse avuto dei dubbi, generalmente non entravano in casa dei signori arcigni, sospettosi, cominciavano a fare l'elenco per il pignoramento, ma invece si veniva convocati. Capitò a mio papà, quando io ero ancora giovanissimo, mio padre era un operaio, una persona molto semplice, aveva ricevuto in eredità da dei parenti del Monferrato, io sono nato a Torino, sono torinese, ognuno aveva le sue radici contadine, un piccolo appezzamento dove c'erano dei pioppi, e aveva fatto da sé questa sua denuncia e poi dopo si scoperse che ne aveva denunciato meno. Bene, fu convocato, mi ricordo, in corso Vittorio Emanuele. Ah, si ricorda ancora la via in cui suo padre doveva andare per la cerimonia? Certo, perché c'era questo grande stabile. E ci andò, devo dire, io ricordo papà che era un uomo molto ligio, molto, aveva le sue idee, certamente molto non convenzionali su tante cose, ma rispetto allo Stato era pieno di fiducia. Si recò, lo ricevette un funzionario, gli spiegò perché, per come i valori catastali erano superiori, e concordavano una cifra e mio padre pagò tranquillamente. Quindi lei ci sta dando uno spaccato ideale quasi di quello che potrebbe essere l'Agenzia delle Entrate. Vedi, senta, in questi anni credo insomma che i funzionari della pubblica amministrazione dedicati all'estrazione fiscale, all'imposizione fiscale, credo che siano aumentati. E quindi voglio dire, penso che potrebbero dedicare il loro tempo, poi adesso sono muniti di tecnologie avanzatissime. Chiaro. Eccetera. Controlli incrociati. Controlli incrociati, eccetera. Però ecco, in quel caso lì avevano fatto questo riscontro, non c'era nessuna tecnologia, forse questo signore, questo funzionario aveva fatto due colpi di telefono alla provincia di Asti, che so. Chissà. Al comune dove c'erano queste cose, aveva convocato mio padre. Mio padre c'era andato senza timore, perché era convinto di non aver fatto nessun peccato, diciamo. Ma ora, al giorno d'oggi, professor Sapelli, dove tutto è quantificato, tutto appunto è frutto di controlli incrociati, certo. La persona potrebbe essere considerata dal sistema fiscale o inevitabilmente deve diventare tutto impersonale, tutto frutto di un incrocio di numeri? No, certo, lei ha colto bene la questione, l'essenza della questione. Vede, questo non è un pezzo dell'enorme trasformazione, quella che Pasolini chiamava la nostra decadenza antropologica, il nostro arretramento davanti all'universo tecnologico. E anche allora c'erano delle tecnologie, per carità, erano molto più elementari, ma quel funzionario le dominava e sapeva che dietro c'era un cittadino. Adesso invece questa illusione managerialistica per cui tutto è quantitativo, ma lei pensi all'università, quando lei fa un concorso deve poi dare un punteggio per tutte le qualità del candidato, 5, 4, 3, 2, questa è una follia. Questo si fa perché si pensa che i commissari che sia più oggettivo frodino e quindi più oggettivo il numero, invece dovrebbe essere il giudizio qualitativo. È un po' la stessa cosa, insomma, no? Adesso c'è questa mania della quantificazione, della valutazione, non dico statistica, ma la statistica è una cosa seria e serve, ma la valutazione quantitativa, mentre invece l'apparato dello Stato può essere partecipato, il cittadino deve sentirlo suo, dietro ai numeri c'è la sua persona, avere uno sguardo, un sorriso, un consiglio, anche un rimprovero, però fatto da De Visu. E io credo che queste norme, numero di persone serie, per carità, che lavorano nell'amministrazione, beh, una parte di loro dovrebbe essere dedicata al contatto preventivo con colui che ha fatto la dichiarazione. Era contatto preventivo? Esattamente, era l'essenza della riforma Vanoni. Cioè, le cosa intende? Ce lo spieghi? Cioè, che prima di darti una multa, tu mi convochi, ascolti le mie ragioni. E guardi, risparmieremmo tempo e denaro. E avremmo poi quella compartecipazione, probabilmente. Questa è quella che alcuni studiosi, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, soprattutto in Francia, pensi in Francia che è la quintessenza dell'età amministrativa, cioè lo stato amministrativo, bene, si fa molta attenzione a creare tutte le occasioni di partecipazione, anche quando pago le tasse, anzi direi di più. Proprio quando pago le tasse. Professor Sapelli, grazie per questo stimolo, spunto, uno sguardo al passato che però può essere più che attuale. E abbiamo quindi percorso insieme una possibilità forse non quantificabile, cioè quella del contatto, del rapporto più umano col fisco, ma che produrrebbe indubbiamente grandi benefici, soprattutto dal punto di vista del senso civico. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Io sono stata chiamata dal fisco, mi ricordava che non avevo chiesto un certo beneficio e mi sollecitava a chiederlo per i figli e nel giro di 2 settimane mi è arrivato a casa, sì, un assegno di $4,000, proprio così. Non si dovrebbe parlare delle proprie esperienze personali, ma questa ve la segnalo. Non mi trovavo in Italia. 32 minuti dopo le 9, ancora buongiorno da Irene Zerbini. È possibile un rapporto più umano col fisco? Abbiamo sentito lo stimolo del professore Sapelli, che in un'intervista ha dichiarato è uno strumento da eliminare questo redditometro perché parte da un presupposto sbagliato. Non si può vivere il rapporto con l'amministrazione sempre partendo da una presunzione di colpevolezza del cittadino. Ma pecca di idealismo, è un eccesso di ottimismo il suo? Avere invece, istituire questo tipo di rapporti decisamente più rilassati non farebbe che incrementare quella vena innegabilmente italica che porta all'evasione? Voi come la pensate? 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Andrea, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Allora, io sono un commercialista e facevo un intervento per sottolineare alcune cose di questo meccanismo legato al redditometro. Sostanzialmente il redditometro è uno strumento che colpisce principalmente la piccola evasione. La grande evasione, perché comunque è incentrato sulla persona fisica, la grande evasione comunque riesce a sfuggire, quindi già questo contiene al suo interno un principio non equo, secondo lei. Esattamente, un elemento di ingiustizia sociale. Sì. A questo aggiungo che il sistema del redditometro fa un po' il paio con la complicatezza del fisco, che tende ad aumentare di anno in anno, perché costringe anche soggetti, diciamo, di dimensioni molto piccole, essenzialmente le piccole imprese, l'imprenditore individuale, a dover conservare un'enorme quantità di documentazione in attesa di potenziali richieste dell'agenzia delle entrate, dell'amministrazione finanziaria. In realtà, va bene, Andrea, lei, il suo voto, abbiamo capito, è assolutamente di insufficienza per questo strumento. Quindi cosa suggerisce lei, che è commercialista, lavora nel settore, cosa funzionerebbe? Si dovrebbe andare verso la semplificazione, molto banalmente. I sistemi forfettari per i contribuenti di piccole dimensioni sono il sistema migliore da due punti di vista. Primo, per il fisco, perché è estremamente facile andare a individuare la materia imponibile, perché magari si ragiona in termini di fatturato, di incassi, con una percentuale fissa, e soprattutto per il contribuente, perché il contribuente riesce con facilità a determinare, prima dell'inizio del periodo d'imposta, facendo una previsione sugli incassi, semplicemente sugli incassi, quella che sarà l'incidenza della pressione fiscale, quindi riesce a pianificare bene la propria attività, sa esattamente quanto gli rimane in tasca e riesce ad adempiere in maniera corretta all'obbligazione tributaria. Le dico un'ultima cosa proprio per semplice, faccio un esempio sull'IRAP, no? Allora, l'IRAP è un'imposta che è mal vista enormemente dagli imprenditori, dai piccoli professionisti, perché comunque incide sul lavoro, eccetera, eccetera. Il fisco cosa ha fatto? Ha introdotto nel corso degli anni una serie di deduzioni rispetto a questa imposta estremamente complicati da calcolare. Io le dico una cosa banale, ma non era meglio abbassare l'aliquota? Molto semplicemente. Beh, basti pensare a un altro esempio, mi viene in mente la deduzione delle spese autoaziendali, era forfettizzata al 40%, poi avevano stabilito che sarebbe stato 27,5%, poi ancora prima che entrasse in vigore quello ridotta al 20%, e c'è una confusione tale che perfino i professionisti del settore come lei faticano a semplicemente ad aggiornarsi, a stare, figuriamoci persone che i commercialisti non lo fanno di professione. E dunque grazie naturalmente per queste segnalazioni tutte condivisibili. Redditometro, 10 mosse per difendersi, questo era il titolo di pagina 2 del Sole 24 Ore ieri, un articolo, un approfondimento molto importante, molto interessante, perché partiva da spunti specifici. Buongiorno a Valentina Melis, una delle giornaliste autrici dell'articolo. Buongiorno Valentina. Buongiorno Irene, a te e agli ascoltatori. Voi siete entrati nel merito anche delle prove da esibire. Certo. Noi abbiamo provato a ragionare un po' su che cosa può fare il contribuente che caschi nelle maglie del nuovo redditometro. Innanzitutto volevo fare una precisazione. L'economia sommersa in Italia vale oltre il 20% del PIL, quindi siamo a livelli di evasione fiscale che nel nostro paese, come dire, è, possiamo definire patologica. Quindi qualcosa va fatta, cioè questo discorso che poi viene approfondito nel merito di alcuni principi non equi, alcuni meccanismi decisamente vessatori non escludono questa premessa che tu hai fatto. Premessa significa che sia il nuovo redditometro, sia lo spesometro, sia l'anagrafe dei conti correnti che debutterà a ottobre sono collegati da questo filo rosso, cioè sono strumenti legati da una logica emergenziale, e l'ha detto anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera. Poi ricordiamo un'altra cosa, i contribuenti che potranno finire nelle maglie del nuovo redditometro saranno 35.000 l'anno, quindi non è uno strumento di massa. È uno strumento che servirà a redigere delle liste di contribuenti a rischio di evasione. L'avvertenza che noi diamo qual è? Tutti quei redditi che non transitano in dichiarazione, perché per esempio derivano da un'eredità, da una donazione, con i quali i contribuenti fanno delle spese, l'acquisto di una casa, l'acquisto di un'auto, spese per gli studi dei figli, spese per i viaggi, spese per lavori in casa, perché no? Per lavori in casa, vanno giustificati semplicemente in questo contraddittorio con le entrate, e se il contribuente sarà in grado di dimostrare la provenienza di quei redditi che non sono passati per la dichiarazione in maniera convincente, il confronto con le entrate si conclude, ovvero non parte l'accertamento. Quindi è molto importante anche considerare che c'è un contraddittorio articolato, e quindi nella prima fase il contribuente dovrebbe avere, come dire, la possibilità di difendersi esibendo queste prove, posto che sia effettivamente in regola con il fisco e che invece non si tratti di proventi occultati. Chiarissima questa precisazione, Valentina. Ora entriamo nel merito delle tipologie che possono ricorrere più frequentemente per capire, in vista di un eventuale contraddittorio, cosa si deve produrre, come difendersi. Acquisti di immobili, penso assunzione di una persona fa? Che aiuta dentro caso una colf. La colf, certo. Voi parlate anche di rette scolastiche tra le tipologie pratiche che illustrate. Ecco, cosa può succedere? Allora, può succedere questo, che sostanzialmente il contribuente fa una spesa, il fisco tollera, diciamo, in base a queste spese l'Agenzia delle Entrate, diciamo, si dice tecnicamente, determina sinteticamente un reddito, e praticamente lo scostamento tra questo reddito presunto e il reddito dichiarato che l'Agenzia può tollerare è del 20%. Se lo scostamento supera il 20% di molto, per esempio un contribuente che dichiara 80.000 euro nell'anno compra una casa che ne costa 450.000 e fa un mutuo solo di 100.000 euro, il fisco cosa fa? Gli rende conto, cioè gli chiede conto dell'esborso di oltre 370.000 euro. e dice: come hai fatto a procurarti questi altri soldi per acquistare l'immobile perché in quell'anno? Perché il fisco parte dal presupposto che quei 375.000 euro di differenza devono essere stati prodotti con il reddito di quell'anno. Con il reddito di quell'anno, esattamente, cioè il punto è esattamente che sotto la lente finisce il reddito di un anno, quindi è proprio questo il discrimine. Il fisco, anche per esempio i redditi derivanti da un affitto, se il contribuente ha un affitto di un appartamento, riscuote un affitto dichiarato anni prima, il fisco dice dimostramelo, e quindi magari io li ho già dichiarati quei proventi negli anni precedenti e ho dei risparmi in banca, allora dice dimostrami che quei risparmi tu li avevi accumulati, questo è il redditometro. Quindi poi un'altra precisazione da fare è che nella circolare 24 diffusa la settimana scorsa l'agenzia dice: per fare queste liste di contribuenti a rischio considerate i grandi scostamenti, cioè il 20% è la soglia tollerata, ma dalle parole che ha usato l'agenzia gli uffici dovranno, come dire, mettere nel mirino gli scostamenti superiori anche al 50, ovvero quello esempio dell'immobile, l'esempio dell'immobile. Quindi tu che sei ottimista fatto, in qualche modo, e ci sia un principio di buon senso, di razionalità, ma che farà sì. Questo è sperabile. Questo è sperabile. Però non sono così ottimisti i nostri ascoltatori. Valentina, rimani con noi e senti cosa ci raccontano. Alessandro, lei che chiama da Reggio Emilia, in onda, buongiorno. Buongiorno, io sono un dottore commercialista e vorrei francamente condividere l'ottimismo della sua collega che parla di un contraddittorio articolato. Purtroppo il sistema non è impostato in questo modo, nel senso che nominalmente c'è la possibilità di fare un contraddittorio. Non esiste però nessun paracadute per il contribuente, perché se il contraddittorio, come direi che quasi sempre avviene recentemente in ambiti molto similari come studi di settore, anagrafe tributaria e accertamenti bancari, se il contraddittorio è un contraddittorio che non è un contraddittorio, cioè si limita al funzionario a una verifica magari molto formale, il contribuente non ha nessun paracadute. Le dico di più, è molto bella l'ipotesi del confronto preventivo del professor Sapelli, purtroppo però il nostro sistema va in tutt'altra direzione, cioè si parte dalla presunzione di colpevolezza di... Ma certamente, anche perché dico questo, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, forse non tutti lo sanno, ma hanno gli obiettivi, hanno i budget, questo è incredibile, hanno i budget come esistono i budget per le forze vendite delle aziende, quindi se tu raggiungi un budget hai un premio. E quindi mi scusi bene, ma chi è quel funzionario che cercherà di fare gli interessi del contribuente e quindi con buon spirito da padre di famiglia cercherà di capire la situazione del contribuente? Ha esattamente gli incentivi se porta a casa quello che deve portare a casa, quindi ha esattamente l'esigenza opposta rispetto al contribuente. Alessandro, grazie, ha decisamente messo il dito in una piaga non da poco. Marco Di Martino, questa indicazione che ci ha dato il suo collega, un altro commercialista, fa cadere all'origine la possibilità illustrata dall'economista Giulio Sapelli ai nostri microfoni che ci possa essere un rapporto più umano col fisco se ci sono questi incentivi negli stessi funzionari, per cui bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono o stanarli anche dove non ci sono pur di portare a casa un budget. Come può non essere viziato il rapporto cittadini-fisco, Marco? Sì, sicuramente le esperienze passate non sono di buon auspicio, se pensiamo a quello che è accaduto nel 2010, anzi nel 2011, dove arrivarono a tutti i contribuenti che avevano acquistato un appartamento nel 2009 una lettera dove fondamentalmente il fisco diceva: secondo noi hai speso troppo rispetto a quello che hai guadagnato, e chiedeva loro un ravvedimento senza precisare la somma, senza diciamo alcun elemento preciso di calcolo, lettere che poi non hanno esplicato alcun effetto in nessun senso, e forse avevano soltanto una funzione di moral suasion, di ispirazione al pagamento delle imposte. Ecco, se vediamo questi atteggiamenti del passato, sicuramente non sono di buon auspicio per il futuro. Ciò che c'è da dire è che questo strumento come principio di base si dovrebbe differenziare ad esempio dagli studi di settore, dove gli studi di settore presumono il percepimento di l'effettuazione di un determinato fatturato in base a determinate spese, quindi è una ricostruzione statistica. Questo elemento, ripeto, se correttamente applicato, con le tolleranze corrette, come diceva il suo collega, magari al di sopra di un certo per lo meno non ha l'elemento di presunzione, diciamo. Dovrebbe basarsi su sulle spese. Più spese più certe, ripeto, il condizionale è d'obbligo. Vedremo, però... vedremo come andrà. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Per gli evasori ci vuole la prigione, questa è la ricetta di Roberto, sarebbe molto più efficace del redditometro secondo il nostro ascoltatore, 349-238-6666, l'argomento ovviamente in fiamma. E questo redditometro è comunque migliore del vecchio, sono diverse le segnalazioni in questo senso, cioè qualcosa di questo redditometro si può ben salvare. Attenzione però a come verranno fatti questi accertamenti e soprattutto a che principi verranno ispirati. Valentina Melis, tu che hai scritto ieri sul Sole, quali sono i timori maggiori del contribuente onesto? Partiamo sempre da questa premessa. Allora, io prima cercavo di esporre, diciamo, le tutele per il contribuente che l'Agenzia delle Entrate ha voluto introdurre nelle indicazioni agli uffici. Non c'è dubbio che tanto il nuovo redditometro quanto l'anagrafe dei conti correnti, che poi sono strettamente intrecciati come strumenti, siano invasivi della privacy e della libertà del contribuente, cioè ovviamente noi abbiamo sempre scritto sul Sole che sono strumenti da maneggiare con estrema cura, perché chiaramente sono strumenti che hanno a che fare proprio con, vanno a intrecciarsi proprio con l'esigenza anche di tutelare la privacy e di tutelare la libertà di spesa del contribuente onesto. Il contribuente onesto, appunto, quello che poi abbiamo cercato di scrivere lunedì è che la vera sfida è tutelare gli onesti che resistono sia a livello di persone fisiche sia a livello di imprese, cioè si spera che questi strumenti siano applicati con oculatezza proprio per evitare di vessare gli onesti e invece sentire a chi evadeva il fisco prima e magari adotta delle, così, delle strategie sofisticate Di continuare a farlo. Il punto qual è? È proprio come dire, che questi strumenti siano applicati con cura. Per esempio, un'altra avvertenza che l'agenzia dà agli uffici è evitare le situazioni di marginalità economica. Che cosa significa? Che se un contribuente ha perso il lavoro per esempio durante l'anno e ha dichiarato reddito soltanto per 6 mesi, non si può andare a vessarlo andando a controllare lui perché magari quell'anno ha comprato una casa con l'aiuto dei suoi genitori. Cioè, questo è evidente che si tratterà di strumenti che andranno messi in campo con estrema cura. Un elemento di giustizia, tra virgolette, del nuovo redditometro rispetto al vecchio è che non ci sono dei coefficienti che vengono applicati alle spese, vengono considerate le spese certe e quindi proprio in questa prima fase del confronto con l'Agenzia delle Entrate il contribuente sarà chiamato a rispondere di spese effettive, no? E non di presunzioni, non di presunzioni, insomma scompare poi questo elemento che aveva creato diverse iniquità ed ingiustizie. Pronto, buongiorno Pasquale, buongiorno, benvenuto. Pronto? Si è intimidito, commercialista? Sì, anche lei? Sì. Ah, sì. Sì, sono commercialista, ma soprattutto un consulente aziendale, per cui diciamo che il discorso fisco, per quanto mi riguarda, è abbastanza... lo so che sto quasi bestemmiando con i colleghi, ma marginale, nel senso che per quanto mi riguarda io il fisco lo vedo un po' come un peso sicuramente per le aziende, che per quanto mi riguarda tengo molto sotto un controllo, ma con molto anticipo, nel senso che cerco di far capire ai miei clienti che il fisco esiste tutto l'anno, non solamente quando arrivano le mazzate a fine anno con le dichiarazioni dei redditi. Per cui il mio consiglio per gli imprenditori, quelli che ci tengono all'azienda, cioè il 90, 95, 98, fate voi, per cento, devono tenere veramente conto dell'impatto fiscale durante l'anno. Non solamente a fine anno, cosa che capita molto spesso, è quant'è quest'anno? No, è troppo. Cioè, se si tiene conto con un certo anticipo dell'impatto fiscale, magari ci si comporta da un punto di vista aziendale in un modo abbastanza corretto. Un consiglio molto pragmatico, sicuramente c'è un che di vero, questo svegliarsi, no? Sempre all'ultimo minuto e inevitabilmente sentendosi vittima di un fisco che ci perseguita e che in realtà dovrebbe lasciarci stare, quasi non ci fossero dei doveri di contribuente, dei doveri di corresponsabilità alla costruzione, anche dal punto di vista contributivo, di questa società. E proprio sul principio sancito dalla Costituzione vale la pena di spendere due parole anche con voi commercialisti, Marco Di Martino. Il sistema fiscale a quali principi dovrebbe essere improntato perché possa definirsi moderno, abbiamo detto, non persecutorio e equo? Quali sono i principi che dovrebbero essere alla base di questo modello? Come ha correttamente ricordato lei, l'articolo 53 della Costituzione sarebbe un ottimo principio ispiratore, cioè di capacità contributiva e di progressività. C'è da dire che le norme, se già nascono poco chiare, muoiono ancora più complicate, perché vuoi per esigenze di gettito, vuoi per andare incontro a richieste di modifiche magari dell'Unione Europea che ci sanziona per qualche ragione, vengono costantemente diciamo rimaneggiate e alla fine diciamo vengono stravolte. Era corretto quello che diceva il collega sui criteri di determinazione della base imponibile, completamente complicati, e per fornire agevolazioni devono essere fatti calcoli che sono di una complessità assurda. Poi c'è da dire sinceramente. Ma basterebbe secondo lei una semplificazione di alcuni criteri, di alcune norme, di alcune richieste per far sì che la fedeltà degli italiani al fisco, storicamente non altissima, migliori? Cioè siamo più evasori di altri o semplicemente abbiamo un fisco che non agevola la vita? Allora, sicuramente il fisco non agevola la vita e non agevola neanche il controllo, nel senso che poi abbiamo un fisco che sicuramente in molte circostanze diversamente interpretabile. Un fisco più chiaro darebbe maggiore possibilità di interpretazione e più facilità di controllo, e sicuramente in fase di programmazione potrebbe anche essere più aderente a quelli che sono i principi ispiratori appunto dell'articolo 53 della Costituzione. Lei ha sentito prima il professor Sapelli, l'economista, parlare di un fisco dal volto umano, se vogliamo semplificare così il suo pensiero, che agevoli anche la volontà di partecipazione alla cosa pubblica del contribuente italiano. Ecco, parlava da accademico, parlava secondo lei che ha a che fare con una clientela variegata tutti i giorni nella sua attività, nel suo studio di commercialista. Secondo lei una responsabilità fiscale dell'individuo ci può essere o si ferma di fronte all'esigenza di aprire il proprio portafoglio? Stava sognando il professor Sapelli o potremmo avere dei contribuenti anche contenti di pagare le tasse se percepissero una maggiore equità? Io penso sicuramente sì, perché è inutile, non è diciamo la solita frase retorica, ma la pressione fiscale, soprattutto per le piccole realtà, soprattutto nelle fasi di avvio, è a livelli tali che e da un lato la pressione e da un lato la complessità non incentivano sicuramente, dal mio punto di vista, la fedeltà fiscale. Cioè ci sono persone che vivono del loro lavoro individuale che sono veramente in difficoltà, e secondo me coloro che non si trovano in questa situazione, cioè che non sono proprio personalmente a svolgere un lavoro autonomo, professionale, dall'inizio alla fine per conto loro, non hanno la percezione fino in fondo diciamo di come sia pesante da un punto di vista formale, cioè di ambimenti sostanziali di pressione. Quindi sicuramente una maggiore collaborazione secondo me porterebbe anche e una maggiore equità porterebbe sicuramente a una maggiore fedeltà fiscale. C'è da dire che le imposte indirette, magari fisse, come ad esempio l'IMU, che ha eliminato il reddito fondiario sulle rendite, cioè prima una casa non affittata aveva un reddito dato, cioè produceva diciamo un reddito figurativo da rendita catastale che era diverso da persona a persona, perché concorreva al suo reddito complessivo. Ora l'IMU ha un'imposta fissa che pagano indistintamente coloro che hanno un reddito basso e coloro che hanno un reddito alto. Ecco, questo è un elemento che va esattamente al contrario rispetto a quanto stabilito la Costituzione. Cioè non dà una progressività, ma questa imposta fissa dà una regressività. E questo continuo susseguirsi, sostituirsi di imposte finalizzate, ahimè, secondo me, da esigenze di gettito. Aumenta anche questa distanza tra cittadino e fisco, che produrrebbe così tanti benefici se eliminato. Ce l'hanno raccontato in programmi in cui ci siamo occupati di fisco anche l'anno scorso, persone che per esempio hanno vissuto all'estero e che hanno avuto la possibilità di constatare semplicemente nella prassi quotidiana come poter compilare una dichiarazione dei redditi in 10-15 minuti, di fatto agevoli anche la fedeltà, il senso di appartenenza e di partecipazione a questo Stato. Grazie a tutti i nostri ospiti di IMU e di altri aspetti delle imposte, parleremo in trasmissioni successive. Voglio chiudere con una segnalazione positiva: i figli dei disoccupati, parlavamo di situazioni di marginalità economica, perché i controlli dovranno evitare proprio queste. Ebbene, i figli dei disoccupati non pagheranno tasse per un anno all'Università di Camerino, e chissà se altri prenderanno spunto da questa iniziativa che vogliamo segnalarvi. È stata adottata a Camerino per contrastare gli effetti più devastanti della crisi. Una piccola cosa, ma chissà, illuminerà anche realtà molto più grandi. Ci fermiamo per oggi, Spunti di Vista ritorna domani mattina alle 8:15. Buona giornata da Irene Zerbini.